Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Speciale voto. Se ci avessero dato retta di più i nostri alleati, l'alleanza di governo probabilmente avrebbe vinto quasi tutte le regioni italiane. E cioè l'unità non è né un problema né un rischio, ma è un'opportunità. Da oggi in Italia il numero di parlamentari eletti torna in linea con quello di tutte le grandi democrazie occidentali, un risultato che porta l'Italia a guadagnare ulteriore credibilità internazionale in uno dei momenti più difficili della sua storia. Dopo essere stati colpiti da una violentissima pandemia, dopo aver sofferto ed esserci rialzati, oggi l'Italia ha infatti dato prova della sua maturità. Ecco, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, li avete sentiti quelli che possiamo definire i due, a livello di leader nazionali, i due vincitori di questa giornata speciale di oggi, questo Election Day, anzi in italiano diremmo più correttamente la giornata elettorale, tornata elettorale, che quindi vi spinge naturalmente a un'edizione speciale di Effetto Notte. Infatti saremo in compagnia non solo dalle 21 alle 22 come sempre, ma dalle 21 alle 23, quindi siateci, seguite, tenete gli occhi aperti, le orecchie aperte sino alle 23, altrimenti parlo, perché avremo molti commenti, molte analisi sul voto di oggi delle regionali e naturalmente del referendum, che ormai è chiaro, ha stravinto il sì col 70%, quindi evidentemente anche i timori per il Covid, sapete tutti voi che siete andati naturalmente ai seggi elettorali, il fatto che ci poteva essere anche una penuria di personale, di presidenti di seggio, dei vari scrutatori eccetera eccetera per la paura del Covid, invece per fortuna quello dal punto di vista del personale si è risolto e le persone, anche i cittadini e le cittadine italiane, non si sono fatte fermare dalla paura del coronavirus, quindi c'è stata un'affluenza decisamente soddisfacente, così ha detto anche Palazzo Chigi, quindi la Palazzo della Presidenza del Consiglio, ha detto con una nota: accoglie con soddisfazione i dati sull'affluenza, gli italiani hanno offerto una grande testimonianza di partecipazione democratica. Vi dicevo, i due possiamo dire vincitori, che appunto da una parte il segretario del PD Zingaretti, perché il centro-sinistra, il PD in particolare, diciamo, è riuscito a tenersi le regioni, in particolare la Toscana e la Puglia, mentre per quanto riguarda Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, anche se il capo politico è Crimi, è riuscito a, appunto, a far votare tante persone per il referendum e a vincere il sì, che voi sapete, quello del taglio dei parlamentari, è da tempo il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, anche se vari altri, insomma, vari altri partiti politici cercano un pochino di, diciamo, arrugarsi il merito di questo referendum. Allora, intanto, prima di passare brevemente a una sintesi della giornata, anche oggi pure in questa edizione speciale, mi collego con la nostra Betta Fiorito dai Palazzi Romani, da Montecitorio. Cara Betta. Ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori. Quindi dicevamo, giornata molto intensa. Betta, ci dai un quadro generale? Dal punto di vista, allora, delle Roberta, regionali, comunali, comunali sappiamo in moltissimi comuni, ma noi ci soffermiamo in particolare sui voti, diciamo, senza nulla togliere ai voti comunali, sulle regionali, sul referendum. Prego Betta. Allora, direi una cosa fondamentale: il governo si rafforza dal risultato del referendum e anche dalle regionali, perché comunque non c'è stata la debacle in Toscana, no? Ha tenuto la Puglia, insomma, è risultato un 3-3, un pareggio di fatto, no? E quindi questa cosa farà sì che la legislatura dovrebbe finire nel termine naturale. Perché? Perché oggi abbiamo la sessione di bilancio, inizia adesso, ci saranno poi i piani per ottenere i fondi europei, recovery fund, eccetera. Alla fine, a giugno, scatta il semestre bianco, che ricordiamo per i radioascoltatori vuol dire che il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. Perché? Perché nella Costituzione si prevedeva che non poteva dare, magari avvantaggiarsi per una seconda rielezione, no? Questo era un po' il vulnus dei padri costituenti, Costituzione che ricordiamo oggi è stata abbastanza stravolta, insomma è stata questa spallata, ci saranno 345 parlamentari in meno e quindi questa situazione sicuramente peserà. Mi sembra però che la sostanza politica, ecco, il governo si rafforza, il Movimento 5 Stelle ha un buon risultato sul referendum ma un pessimo sulle amministrative, però è sempre stato così, il PD si rafforza, la Lega ha una scissione perché c'è un plebiscito di Zaia che offusca Matteo Salvini. Appunto, sicuramente un plebiscito di Zaia Betta che era previsto, non a livello di percentuale che sicuramente si immaginava alta, però sul fatto che lui sarebbe stato riconfermato, questo era scontato, no? Era solo in gioco capire con che risultato ed è stato un grande successo, insomma, no? Per il presidente del Veneto. Un 74%, insomma, io guarda, ieri c'è stata una cosa qui a Roma che noi ricordiamo, Roberta, perché è la presa di Porta Pia. Dopo la presa di Porta Pia fu fatto un referendum, no? Cioè un plebiscito all'epoca si chiamava, in cui tipo il 99% votò per a favore del Regno d'Italia, ovviamente contro il Papa Re. Ecco, mi sembra che in Veneto ci sia stata una seconda presa di Porta Pia oggi, ma il Veneto è un po' anche, ricordiamoci che è proprio Zaia, perché poi la Lega è molto molto molto bassa in Veneto e quindi è un successo personale prima di tutto, infatti poi analizzeremo anche questo con altri ospiti. Betta, intanto è un po' la presa di Porta Pia, il Veneto sta facendo la presa di Porta Romana a Milano, insomma, ecco, diciamo così, la Lega Veneta sta conquistando tutta la Lega Nord e sta sovrastando la Lega Lombarda. E infatti poi capiremo quindi, anche le riflessioni. Sì. Nei panni di Pio Nono, ecco, diciamo. Tutte le metafore storiche di Betta per far capire che lei ha studiato la storia. Betta, fermati un attimo perché ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, la nostra Alessandra, invece per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Alessandra, com'è andata? Quindi il referendum vinto dal punto di vista del Movimento 5 Stelle, poi a livello di partito, di risultati per quanto riguarda le regionali. Alessandra, ciao. Sì, ciao, buonasera Roberta. Sì, come hai detto tu, come avete detto anche voi da studio, insomma, il Movimento 5 Stelle esulta per l'esito del referendum, intestandosi ovviamente la vittoria per una battaglia che ha portato sempre da sempre avanti quella sostanza dei parlamentari, se l'è intesa soprattutto Luigi Di Maio, che insomma si è precipitato in sala stampa a Montecitorio per rilasciare una dichiarazione proprio già alle 5 del pomeriggio, si è detto felice, orgoglioso di questo risultato, ma insomma tutta questa enfasi poi sul referendum non è riuscita a nascondere poi il risultato deludente delle regionali, tant'è che poco fa lo stesso Crimi, ma pochissimi minuti fa, ha ammesso che il risultato è stato inferiore rispetto alle precedenti elezioni regionali e dovremmo insomma portare avanti un ascolto dei territori, un maggior raccordo, un coordinamento che dovranno essere il punto centrale del percorso che faremo nei prossimi mesi, mentre Barbara Lezzi, un'altra pensatelata, ha parlato di risultato disastroso, ha detto insomma sono urgenti adesso gli stati generali, insomma, è fondamentale che si possano riorganizzare, mentre Luigi Di Maio si era limitato a dire insomma è mancata una strategia nell'organizzazione delle regionali, diciamo che appunto l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle di fatto non c'è stata, tranne che in Liguria, insomma aveva un po' scaricato la responsabilità sul capo politico Vito Crimi, Luigi Di Maio, sottolineando soprattutto appunto invece il successo per quanto riguardava il referendum. E poi insomma ci sono state alcune voci critiche, adesso cominciano insomma ad esserci. Ho visto Corrao anche, no? Corrao che scrive insomma cosa c'è da essere contenti per questo risultato inesistente, rilevante. Adesso siamo arrivati insomma a contare, siamo derubricati nella voce altri partiti, insomma se non ci diamo una mossa, se non cambiamo qualcosa faremo la fine dell'Udeo, insomma. Tace invece Alessandro Di Battista che, come sappiamo, aveva fortemente criticato il voto disgiunto che sembra poi aver dato una mano in Toscana e in Puglia, insomma non ci sono molte dichiarazioni da parte dei pentastellati, forse cominciano proprio in questi minuti. Grazie Alessandra Schepisi. Alessandra, poi invece in collegamento c'è anche Andrea Viali, ciao Andrea, per il centrodestra, quindi Marche conquistate, in particolare con soddisfazione di Fratelli d'Italia, Andrea, E poi il Veneto, abbiamo detto appunto il plebiscito per il presidente riconfermato, quindi Zaia, e riconfermato anche il presidente della Liguria Toti, no? Esattamente, però possiamo anche dire che comunque quello del centrodestra è stato quello di oggi per il centrodestra è un bilancio con luci e ombre, perché come previsto, come hai detto, la coalizione ha trionfato in Veneto con Zaia, si è riconfermata anche in Liguria con Toti, è riuscita soprattutto a strappare le Marche al centrosinistra dopo 50 anni, ma questa cosa invece non è riuscita in Toscana e non è riuscita neppure in Puglia e in Campania, e in questo modo possiamo dire che è sfumato il sogno di una vittoria per 7-0 che diciamo avevano in qualche pronosticato modo così previsto, voluto, auspicato, diciamo meglio Salvini, no? Esatto, ecco, proprio Salvini questa sera in conferenza stampa ha comunque sottolineato che, considerando anche la Valle d'Aosta, che farà lo spoglio domani, comunque il centrodestra governerà in 15 regioni su 20. E Salvini ha detto anche poi di non temere la concorrenza di Zaia, che si è imposto con percentuali mai viste per un governatore ricandidato, no? Ecco, e con la sua lista ha ottenuto anche molti più voti di quelli del suo partito, della cioè Lega la Lega. Certo. Salvini tra l'altro ha anche detto che non chiederà elezioni anticipate dopo questo, che è stato un voto regionale o comunque un voto referendario. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, lo dicevi, festeggia invece per la vittoria di Acquaroli nelle Marche. Siamo l'unico partito che cresce in tutte le regioni al voto, ha commentato Giorgia Meloni, che invece, a differenza di Salvini, lei è tornata a chiedere elezioni anticipate. Grazie Andrea Viali. Ricordo a chi fosse più distratto che si è votato in 7 regioni, quindi la Campania, la Puglia, il Veneto, la Liguria, la Valle d'Aosta, le Marche e la Toscana. E per quanto riguarda il Partito Democratico c'è in collegamento la nostra Teresa Trillò. Ciao Teresa. Ciao Roberta. Quindi il Partito Democratico che ha avuto un po' paura, l'abbiamo sentito anche, poi se abbiamo tempo sentiamo dallo stesso Emiliano in Puglia, il governatore uscente riconfermato, diciamo forse non si aspettava di farcela così bene anche in Toscana e Puglia, che erano le due regioni più in bilico, più a rischio. Sì, esattamente, erano le due regioni dove il PD temeva di poter perdere. Tra l'altro la Toscana sarebbe stato una vittoria dolorosa, cioè una sconfitta dolorosa, perché la Toscana è sempre stata la roccaforte rossa, quindi passare dal centro-sinistra a centrodestra, la Lega, ricordiamo, il centrodestra candidava da Ceccardi, che è una leghista ed è stata anche la prima sindaca in un comune toscano. A Cascina, sarebbe stato chiaramente una sconfitta bruciante. Invece Toscana e Puglia sembrano oramai in territorio di centrosinistra, quindi il PD rivendica di fatto la vittoria. Siamo il primo partito, dice Nicola Zingaretti, però non parla di rimpasto di governo in questo momento, dice che il PD pensa al recovery fund. E comunque dopo la vittoria, molto soddisfatto anche per la vittoria del referendum, perché ricordiamo che il Partito Democratico ha deciso in modo unitario di schierarsi per il sì, però comunque ci sono state anche delle voci discordanti, ci sono stati anche dei membri del partito che si sono schierati apertamente per il no. Quindi dopo questa vittoria del sì al referendum, Zingaretti chiede di andare avanti sulle riforme, bisogna farlo insieme agli alleati, anche perché in ballo c'è la legge elettorale che fino ad ora non è stata ancora modificata, cioè, della quale poi parleremo. Grazie Teresa Trillò. Beta Fiorito, prima di lasciarci una chiosa, adesso abbiamo la viabilità e poi dopo passo brevemente alle notizie, anche le altre notizie importanti della giornata. Beta. Il vero perdente di questa tornata elettorale ha un nome: Matteo Salvini. Ha perso la leadership della Lega. Cioè, tu dici è andato male, perdente. Perché è andato male in Toscana e Puglia, che erano le regioni che pensava di prendere, e poi con Zaia. Zaia che ha riscosso molto successo. Urla allora Conte, ci coinvolga sul recovery fund, il proporzionale alla morte del paese. La Lega da stasera, per quanto mi riguarda, opinione ovviamente assolutamente personale. Personale, ha un nuovo leader, si chiama Luca Zaia e per la prima volta potrebbe esserci anche questo ribaltone all'interno della Lega, in cui la Lega Veneta conquista la Lega Nazionale e mette da parte la Lega Lombarda. Va bene, queste sono le previsioni. Una nuova epoca si è aperta nel centro. Grazie Betta Fiorito, vediamo un po' i suoi pronostici, insomma, se avranno seguito. Adesso chiaramente dentro i vari partiti dovranno fare un po' i loro conti, le loro valutazioni e capire come procedere. Poi avremo la nostra Barbara Fiammeri, ma intanto c'è la viabilità e poi vi ricorderò giusto in sintesi le giornate, le altre notizie più importanti della giornata. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano con voi in questo speciale Effetto Notte che andrà avanti sino alle 23, quindi rimarremo in compagnia un'ora in più del solito, anziché solo dalle 21 alle 22, per appunto analizzare i risultati delle elezioni regionali e quelli naturalmente del referendum, ma anche per capire le conseguenze da un punto di vista sia interno ai partiti, sia a livello del governo nazionale e poi anche delle riforme che dovranno seguire a questa vittoria del sì nel referendum. Però vi ricordo anche le altre notizie. Elezioni regionali, al centrodestra vanno Marche, Veneto, Liguria, al centrosinistra mantiene Puglia, Campania e Toscana. Referendum, il sì vince con quasi il 70%, esulta Di Maio, dice un risultato storico, il PD già preme per le riforme. Il coronavirus in Italia, contagi in calo ma con meno test, Francia zona rossa, l'Italia chiede il tampone e la borsa, le borse ora temono nuovi lockdown. Cadavere nell'Adda, è stato riconosciuto il corpo di Hafsa, la 15enne marocchina inghiottita dal fiume l'11 settembre. Torino, la sindaca Appendino condannata a 6 mesi per falso, resta al governo della città ma non è più candidabile. Quindi dati politici li avete sentiti e su questi torneremo naturalmente, ci sarà tutto il tempo per commentarli. Invece partiamo da altri dati, quelli relativi al coronavirus in Italia e poi in Europa, dove non c'è tregua, soprattutto le preoccupazioni sono per la vicina Francia. È in lieve calo il numero dei contagi per Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 1.350 i nuovi casi a fronte dei 1.587 del giorno precedente, ma con 55.000 tamponi, 28.000 in meno circa. Stabile il numero dei decessi, 17 morti nell'ultimo giorno, rispetto ai 15 precedenti. La Campania è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi, seguita dal Lazio. Netto calo dei casi in Lombardia, 90 in un giorno. Aumentano di 10 unità i posti occupati in terapia intensiva, complessivamente 232, e tornano a salire i pazienti ricoverati anche negli altri reparti, 110 in più. Dati che per il momento non sono paragonabili alla seconda ondata in corso negli altri stati europei, Francia in primis. Per questa ragione il ministro della Salute Roberto Speranza ha esteso l'obbligo di effettuare test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. I dati europei non possono essere sottovalutati, dichiara Speranza. L'Italia oggi sta meglio di altri paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con rischio di nuovi lockdown in Gran Bretagna, oltre che in Francia, sale la pressione sui mercati. Milano perde il 3%, Parigi lascia il 3,74%, Londra il 3,38%, Madrid perde il 3,43%, teme la pandemia anche Wall Street, col Dow Jones arrivato a perdere il 3%. I viaggi di Radio 24. Dicevamo, Londra semideserta che rivive il lockdown, Barcellona senza la sua movida, immagini dalle città del mondo dove la pandemia continua la sua corsa. Come si vive quindi nelle grandi metropoli? Le abitudini e i ritmi sono cambiati non solo in Italia. Con Radio 24 andiamo alla scoperta delle città Covid e cominciamo oggi da Parigi. All'ombra della Tour Eiffel, la crisi del coronavirus non sembra aver intaccato lo spirito dei parigini, nonostante le restrizioni imposte dopo l'accelerazione di contagi in questi ultimi giorni. Diventata ormai zona rossa come altre città della Francia, la Ville Lumière si è adattata, cambiando molte delle sue abitudini. La mascherina è ormai obbligatoria metropolitana, ma anche nelle strade, mentre ristoranti e bistrò sono stati autorizzati ad aumentare il numero di tavolini all'esterno per garantire il distanziamento tra i clienti. Una trasformazione che però è cominciata nella mobilità urbana con le coronapiste, i nuovi percorsi ciclabili creati durante la quarantena per incentivare l'utilizzo di biciclette, snellendo il traffico e il sovraffollamento nei mezzi pubblici. Visto il successo, il sindaco Anne Hidalgo ha promesso che le piste rimarranno una volta che la crisi sarà passata. C'è una vera evoluzione, penso che molti parisiani hanno un po' il stesso riflesso di utilizzare più in più il velo. È una rivoluzione, in molti si sono abituati ad utilizzare sempre di più la bicicletta, spiega Romain, ma la città è cambiata e i parigini sembrano essersene accorti. Il y a beaucoup plus de trucs qui sont fermés, on peut plus rester aussi longtemps en terrasse. Il y a plus de fête en réalité. Ci sono molte attività chiuse, non si può più restare troppo tempo seduti ai tavolini fuori. In realtà non c'è più la festa di prima, dice Julien. Una situazione paradossale per la città delle luci, che teme una nuova stretta se la situazione dovesse peggiorare. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Tornando in Italia, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a 6 mesi per falso ideologico nell'ambito del processo Ream. Stessa condanna per l'assessore comunale al bilancio, Sergio Ronaldo, 8 mesi invece per l'ex capo di gabinetto, Paolo Giordana. La sindaca annuncia che concluderà comunque il suo mandato e si autosospende dal Movimento 5 Stelle. Come è evidente, dice anche dalle carte processuali, non ho tratto alcun vantaggio personale. Anzi, l'accusa, nella sostanza, era di aver ingiustamente avvantaggiato il comune, ha spiegato Appendino su Facebook, assicurando che ricorrerà in appello perché certa, dice, della mia innocenza e della mia assoluta buona fede. Nella notte a Rivara, a Torino, un uomo di 47 anni, italiano, operaio in un'azienda meccanica, ha usato una pistola illegalmente detenuta per uccidere il figlio di 11 anni. Poi con la stessa arma si è sparato. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Poco prima del folle gesto l'uomo aveva scritto su Facebook: nessuno potrà dividerci, partiamo per un lungo viaggio. Vigliacco, ha commentato, l'ex moglie e madre del piccolo, ha dato colpe a me di cose che lui non era in grado di affrontare. Il corpo ripescato nell'Adda ieri è quello di Hafsa, la 15enne marocchina inghiottita dal fiume il 1 settembre. Il riconoscimento è stato effettuato nel pomeriggio dai genitori in obitorio. Poco prima, rilievi tecnico-scientifici della Polizia di Stato erano già giunti alle identiche conclusioni. E per l'estero, la Corte Suprema russa ha definitivamente abolito Russia Futura, il partito fondato da Alexei Navalny, sapete, il principale dissidente di Putin, che è stato avvelenato e che si è ripreso in questi giorni. Lo ha confermato la Corte a Interfax. L'anno scorso il Ministero della Giustizia aveva negato la registrazione del partito, avendo motivato la sua decisione con il fatto che questo nome era già stato usato da un altro organo politico. Per chiudere lo sport, il tennis, con Roma che incorona la sua regina e Simona Halep, la tennista romena ha vinto gli internazionali Open dopo il ritiro al secondo set in vantaggio 6-0-2-1 dell'avversaria Caterina Pliskova. La romena vince il suo primo torneo a Roma dopo 2 KO in finale nel 2017 e nel 2018. E ora ritorniamo quindi sull'esito delle regionali e del referendum. C'è Barbara Fiammieri in collegamento, esimia commentatrice del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera a tutti. Buonasera, bentornata. E c'è il professore Roberto Dalimonte, che sappiamo esperto di sistemi elettorali, professore di sistemi elettorali alla LUIS, editorialista del Sole 24 Ore. Professor Dalimonte, se dovesse fare una fotografia, un'istantanea dei risultati in generale tra referendum e elezioni regionali della situazione attualmente politica in Italia. L'istantanea direi che il governo ne esce stabilizzato, consolidato. Il PD ha ottenuto il risultato delle aspettative parigine. Professore, mi perdoni, non l'abbiamo sentita molto finora perché probabilmente c'è qualche problema con il telefono. Pronto? Ecco. Ora meglio. Ecco, dicevo, il governo ne esce bene, perché ne esce consolidato. Visto che sia il PD che il Movimento 5 Stelle hanno ottenuto un risultato positivo. Il Movimento 5 Stelle perché la maggioranza a favore del sì è stata una maggioranza importante. 70-30 è comunque un ottimo risultato. Il PD è arrivato a conquistare 3 regioni, cosa che alla vigilia non veniva data per molto probabile. Quindi entrambi i partiti di governo escono bene da questa prova elettorale. La Lega ne esce maluccio, soprattutto la sconfitta in Toscana pesa, ma pesa secondo me anche molto la grande vittoria di Zaia, questo dal punto di vista ovviamente della, l'abolimento di Salvini, perché come abbiamo visto in Veneto Zai ha ottenuto un successo clamoroso con la sua lista personale, quando la lista della Lega invece ha avuto un successo mediocre, la lista della Lega con Salvini nel simbolo. Quindi ecco, questo direi un po' il quadro. Chiarissimo, professor Dalimonte. Senta, a questo punto però, con questa riforma costituzionale del taglio dei parlamentari, di una certa riduzione dei parlamentari in Italia, e bisogna anche cambiare la legge elettorale? Io sono assolutamente contrario. Come fai alcuni adeguamenti, vanno ridisegnati i collegi, e poi verrà a cambiare qualcos'altro che non è la legge elettorale, ma sui regolamenti parlamentari. Io sono totalmente contrario a cambiare la legge elettorale, soprattutto io sono contrario a quella legge elettorale di cui ha parlato Di Maio oggi, rivendicando il successo del referendum, cioè quel proporzionale che farebbe tornare l'Italia ai tempi e alle dinamiche della Prima Repubblica. Il Germanicum lo chiamano, professore? Il Germanicum, che è una falsa etichetta, perché non è affatto un sistema tedesco, è un sistema italiano, non è un sistema della Prima Repubblica, non è un germanico, anche perché poi di germanico avrebbe solo la soglia del 5%, la soglia di sbarramento del 5%. Lei ci crede che questo Parlamento approverà una soglia del 5%? Se è una soglia del 4 o del 3 si continuerà a chiamare un germanico, ma questo fa parte dell'incultura politica del nostro Paese. Quindi, professor Dalimonte, lei ha detto è contrario alla riforma della legge elettorale. Che cosa due o tre punti che saranno necessari di adeguamento dopo la riduzione effettiva dei parlamentari? Beh, il ridisegno dei collegi uninominali, perché il Rosatellum prevede, voi sapete, un terzo circa di collegi uninominali, e un conto è calcolare, delineare un terzo di collegi con 315 senatori e 630 deputati, ora che invece i senatori sono 200 e i deputati 400, i collegi andranno ridisegnati. Questo è una delle modifiche. L'altra modifica è, secondo me, l'assegnazione di seggi su basi pluriregionali, multiregionali. Quindi, però sì. Io non accetto la tesi sostenuta dai 5 Stelle e dal PD che il taglio dei parlamentari richiede necessariamente una nuova legge elettorale di tipo proporzionale. Non è una necessità, è un espediente politico quello di far passare una nuova legge elettorale proporzionale, per ragioni che non hanno nulla a che vedere con il funzionamento delle Camere. Quindi per lei può rimanere tranquillamamente la legge elettorale attuale, professore? Con gli adeguamenti, gli adattamenti di cui ho detto. Chiaro. Grazie professor Roberto Dalimonte. Sì, prego. No, aggiungo questo. Prego, prego. Io sarei favorevole a un'altra legge elettorale, ma non proporzionale. Io da sempre vado dicendo che noi abbiamo bisogno in Italia di un sistema simile, non identico a quello della Francia, il doppio turno. Noi abbiamo bisogno di chiedere agli elettori di votare due volte invece di una volta, per avere governi più stabili. Chiarissimo, professore. Grazie professor Roberto Dalimonte. Grazie e buon lavoro ancora. C'è la nostra Barbara Fiammeri. Ecco Barbara, hai sentito anche i ragionamenti, i commenti, le analisi del professor Dalimonte? Sono d'accordo con Dalimonte. In Italia servirebbe il doppio turno, se ne è parlato tante volte, ma poi non lo fanno perché non conviene, perché non deciderebbero più i partiti ma gli elettori, il governo. Con il doppio turno sarebbe tutto più trasparente, perché i migliori si contenderebbero poi il governo e le alleanze sarebbero alla luce del sole, non nelle stanze dei palazzi. Quindi noi italiani sapremmo che, non so, la destra è alleata con una parte del centro, la sinistra con una parte del centro, ad esempio la sinistra con i 5 Stelle. L'elettore ha il diritto di sapere se faranno col governo. Invece noi ci siamo ritrovati a votare in un modo e poi abbiamo fatto il governo Lega, abbiamo visto il governo Lega 5 Stelle, adesso vediamo il governo PD 5 Stelle, domani non lo so, vedremo Lega PD, perché qui ormai la fantasia può andare ovunque, però noi non abbiamo deciso niente. E secondo me sarebbe molto più corretto che quantomeno questi patti, che sono giusti, perché è giusto che poi le false, cioè io sono una fautrice del compromesso, penso che il compromesso sia una cosa positiva quando è una mediazione, perché però sia fatto alla luce del sole e quindi l'elettore si è messo di fronte a una scelta. Ma scusate, ma la cosa che ci piace di più votare noi italiani sono i sindaci, e il sindaco funziona col doppio turno. Se tu non conquisti oltre il 50%, si va al doppio turno, e in questo modo l'elettore sceglie se quell'alleanza gli piace oppure perché se poi invece... i partiti sarebbero costretti ad allearsi alla luce del sole e poi nel doppio turno uno decide mi piacete, non mi piacete, insomma. Certo. Ma comunque insomma della legge elettorale secondo me ne continueremo a parlare, perché non è che la faranno domani, perché quando si fanno le leggi elettorali è sempre molto pericoloso, poi le forze politiche si dividono perché lì ne va della loro vita proprio. Cioè, faccio un esempio banale, sì. No? Con Renzi ridotto un po' al lumicino da questa elezione, ma che ha invece in Parlamento ancora un consistente patrimonio di deputati e soprattutto di senatori. Secondo voi una legge elettorale dove gli mettono lo sbarramento al 4%, al 5%? Lui la vota, come diceva la vota, il professor Dalmonte. E se non la vota cade il governo, quindi... Cioè, per questo dico, chi diceva adesso si fa la legge elettorale, anche Di Maio l'ha detto stasera, io non ci credo, è una balla. Se si fa una legge elettorale entra la maggioranza va in crisi, e siccome già ci sono tante cose da fare, c'è il Recovery Fund, c'è il MES, c'è la finanziaria, ci sono tante, ci sta la scadenza delle nuove, perché già adesso ci si preparerà per le elezioni in primavera, cioè c'è da decidere il sindaco di Roma. Un sacco di cose importanti. Barbara, però ci dobbiamo fermare, ci risentiamo tra un pochino, adesso c'è una pausa di riflessione, tante cose che abbiamo messo insieme fino adesso, ascoltatrici e ascoltatori, aspetta anche una pausa di respiro, ritorno, Ratta con la Folgore tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi in questa speciale edizione di Effetto Notte, perché naturalmente per questa giornata altrettanto speciale di tornata elettorale si va avanti sino alle 23, quindi resto in vostra compagnia sino alle 23 con gli ospiti e quindi con l'analisi man mano del voto delle regionali e anche con un approfondimento delle possibili conseguenze della vittoria del sì nel referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, che ha raggiunto circa il 70% dei sì. Per quanto riguarda invece le regionali, vi aggiorno velocemente, in Toscana con lo scrutinio di 2.541 sezioni su 3.937, in testa è Giani del centrosinistra 48,87%, Susanna Ceccardi del centrodestra 40,20%, mentre Galletti del Movimento 5 Stelle 6,36%. Poi per quanto riguarda la Puglia, adesso 482 sezioni su 4.026 sono state scrutinate, Emiliano è al 47,9% per il centro-sinistra, lo sapete per la riconferma, Fitto del candidato del centrodestra è al 38,56%, la Ricchia del Movimento 5 Stelle 11,26%, mentre per il Veneto, già lo dicevamo, il plebiscito per il presidente uscente, quindi riconfermato col 75,53%, Lorenzoni del centrosinistra ha raggiunto solo il 16,81%, Cappelletti del Movimento 5 Stelle il 3,37%, poi in Liguria ha riconfermato Toti del centrodestra col 55,56%, Sansa è arrivato al 39% del centrosinistra, 39,67%. E poi per quanto riguarda le Marche, ha vinto Acquaroli del centrodestra 48,85%, mentre Mangialardi del centrosinistra 37,25%, sono a 918 sezioni scrutinate su 1576. Per la Campania, altro trionfatore invece di queste regionali, Vincenzo De Luca, governatore uscente riconfermato del centrosinistra col 67,84%, mentre Caldoro del centrodestra è arrivato al 16,23%, Ciarambino del Movimento 5 Stelle 12,57%. In Valle d'Aosta, primo partito, la Lega 20-24%, mentre gli altri partiti decisamente sotto. Adesso però vorrei col professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Roma 3, che saluto, bentornato professore. Buonasera, sempre con piacere. Allora, è vero con questo sì del 70%, quindi insomma la vittoria, comunque anche se avessero votato solo in due perché non c'era bisogno di raggiungere il quorum con questo referendum, è vero come dicono alcuni esponenti della Lega che questo Parlamento, una volta che ha vinto il sì per la riduzione dei parlamentari, non potrà quindi eleggere così com'è il Presidente della Repubblica? Questo non è vero. Anche perché la legge costituzionale di riforma su cui siamo andati a votare diceva molto chiaramente che gli effetti si produrranno dalla prossima legislatura, quindi dalla scadenza delle Camere, che può essere o la scadenza naturale, marzo 2023, oppure uno scioglimento anticipato. Ma diciamo che se non vengono sciolte le Camere anticipatamente fino al 2023, noi ci terremo legittimamente i 945 parlamentari. Cioè, il Parlamento attuale non perde alcuna forza per questo voto. Il presidente, il segretario della Lega Zingaretti, che oggi diciamo è uno dei principali vincitori, ha detto, visto che sente che insomma il governo è consolidato, in particolare il Partito Democratico, adesso è solo l'inizio questo del sì al taglio dei parlamentari, solo per una serie di riforme. Sentiamo questo audio. Il Partito Democratico ha detto sempre sì per cambiare, perché sapevamo che con il sì si poteva aprire una nuova stagione di riforme. Ora questa stagione di riforme bisogna aprirla, raccogliendo anche tanti dubbi di coloro che hanno votato no, che vanno rispettati, che era un timore per la democrazia, per la rappresentanza. Io sono convinto che questa stagione di riforme ora bisogna aprirla all'insegna delle garanzie, della rappresentanza, del rafforzamento delle istituzioni democratiche. Anche questo ora è più semplice farlo. Riforme più semplici da fare a questo punto, professor Celotto, quali riforme potranno seguire a questo sicuramente, risultato? Sicuramente questa riforma non è una riforma decisiva, nel senso che aver tagliato il numero dei parlamentari non ti consente di risolvere i principali problemi di funzionamento del Parlamento, perché noi sappiamo che oggi il Parlamento ha un problema di farraginosità delle procedure, che è dovuto al bicameralismo, ha un problema di centralità nel dibattito politico, perché come sappiamo con internet, la televisione, i social network, molto spesso il dibattito politico si svolge altrove, anche le decisioni vengono prese altrove, Unione Europea, regioni o anche grandi fenomeni internazionali tipo Google, Amazon, Apple prendono decisioni su cui il Parlamento non riesce ad incidere. E poi il Parlamento ha poca qualità degli eletti, no? È una cosa che ci siamo detti negli ultimi anni più volte. Quindi questa riforma va letta in questo modo, cioè come apertura verso altre riforme. Quali riforme? La legge elettorale, per avere una legge elettorale che ci consenta una buona governabilità e una buona rappresentanza. Anche se si diceva prima con Barbara Fiammeri, il professor Dalimonte, come sarà difficile riuscire ad arrivare effettivamente a una riforma elettorale, se il professor Dalimonte per esempio non era d'accordo con un cambiamento. Ma secondo me sarà difficilissimo, perché? Perché in genere le leggi elettorali negli stati sono piuttosto stabili e in Italia è stata la stessa legge elettorale dal 1946 al 1993. Un proporzionale semplice, quello che scelsero i comitati di liberazione nazionale, perché? Perché l'Italia è un paese pluralista, diviso, e quindi ha bisogno di una legge elettorale in cui ognuno va il suo, come è stato per 40 anni. Poi, dal 1993, in un determinato contesto storico, abbiamo cominciato a cambiare la legge elettorale e in 20 anni l'abbiamo cambiata 4-5 volte. La cosa assurda è che il partito di maggioranza al governo in quel momento ha provato a cambiarla a suo favore e incredibilmente, per nemesi storica, per contrappasso è andata a sfavore invece. Sempre, ha perso sempre. Professor Celotto, mi perdoni, sentiamo un attimo Emiliano, i sondaggisti, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. E quindi è chiaro che siamo andati anche noi in una grande preoccupazione. Questo forse ci ha aiutato a forzare ancora di più la mano, perché gli ultimi giorni, l'ultima settimana c'è stato un porta a porta spaventoso che probabilmente ha anche aumentato la dimensione della vittoria. Abbiamo preso più voti dell'altra volta nel 2015, quindi in termini assoluti. Non se l'aspettava Emiliano. Celotto, quindi stava dicendo appunto, stava parlando della riforma elettorale, le altre riforme quali potrebbero essere? L'Italia ha bisogno di stabilità governativa e di miglior funzionamento delle istituzioni da un lato e dall'altro di maggior coinvolgimento dei cittadini, perché la nostra Repubblica parlamentare si fondava sui partiti, ormai i partiti sono venuti meno per ragioni storiche, per ragioni di globalizzazione, e mi sembra che noi siamo tutti un po' confusi. Perché? Perché da un lato la società di internet sembra che ci rende tutti uguali e quindi va verso il populismo, però il mondo globalizzato, che è questo mondo praticamente di scambi velocissimi, di economie superiori alle produzioni, ci rende sovranisti. Questo è incredibile, no? Che allo stesso tempo noi siamo confusi fra questi due estremismi e ci sentiamo poco rappresentati. E quindi bisognerebbe cercare soprattutto di coinvolgere le persone. Su questo secondo me c'è un dato importante anche nel referendum, cioè i partiti, gli attuali partiti, erano schierati al 95% per il sì, perché tutti i partiti avevano ufficialmente detto sì, salvo più Europa e Azione, che insieme fanno a stento il 5% oggi. Però il 30%, non il 5%, dei cittadini ha votato invece per il no. Che cosa significa? Significa che c'è un pezzo di paese, un terzo di paese, che comunque pensa con la sua testa consapevolmente, al di là delle indicazioni di partito, e vedevo anche dei dati proprio geografici. Anche se diversi partiti hanno dato chi Libertà di Coscienza, Forza Italia, altri si capiva che insomma si forzavano a dire sì. Sì, erano per il sì. L'ultima votazione in Parlamento ha fatto il 97% di sì, questa riforma. Sì, certo, poi tanti hanno vacillato. Io ero per il no, non ho problemi a dirlo, perché io la ritengo una riforma parziale e poco utile, che però può essere letta. Noi dobbiamo essere costruttivi e rispettare la democrazia. Ha vinto il sì, e quindi in base al principio di maggioranza oggi abbiamo il taglio dei parlamentari, che però da solo serve veramente a poco. Deve essere l'inizio di riforme. La legge elettorale è una riforma difficile, perché ciascuno vuole scrivere le regole a suo favore, ma non esistono regole a suo favore. Allora torniamo al proporzionale del 1946 e basta, con cui l'Italia si è retta 40 anni. Forse è più semplice. Poi i regolamenti parlamentari, ce ne sono di riforme, però le riforme vanno fatte con oculatezza, perché non sono mai facili. Spesso sbagliare una riforma significa fare un mezzo caos. Certo, sarà un lunghissimo dibattito, e comunque, come diceva Boccia degli Affari Regionali, ministro del PD, bisogna coinvolgere naturalmente maggioranza e opposizione. Grazie professor Alfonso Celotto, grazie. Sì, ricordo, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi Roma 3. Dobbiamo andare in viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ora le notizie ce le facciamo dare dal Veneto, dalla Toscana, dalla Puglia, sinteticamente con Paolo Usinabia dal Veneto. Ciao Paolo. Ciao. Paolo, quindi grande vittoria di Zaia, riconfermato 75,58%, quindi a livello, diciamo, di presidente di regione riconfermato con un plebiscito, ma anche dentro la Lega, insomma. Sì, sì, un risultato che non ci si aspettava, o meglio, ci si aspettava un risultato forte, ma Zaia addirittura si è attestato sopra i sondaggi preelettorali, ottenendo il 76% dei consensi. Il primo messaggio forte che ha lanciato poco fa e tuttora in diretta streaming dal K3 di Treviso, dove sta festeggiando, è quello che abbiamo solo un obiettivo, cioè quello di portare a casa l'autonomia. Sì. E poi ha fatto anche una piccola analisi del risultato e ha parlato anche del programma che vuole portare a termine. Ricordiamo che questo risultato del 76% non si era mai visto in Veneto. Lo scrutinio riguarda quasi 2.000 sezioni su 4.700. Basti pensare che nella scorsa tornata del 2015 superò Zaia di poco il 50%. Arturo Lorenzoni, il candidato di centrosinistra, è per ora sotto il 17%, e nel 2015 la candidata Moretti ottenne poco meno del 23%. E poi c'è anche il crollo dei 5 Stelle, che dal 12% del 2015 passano al 3%. Quindi insomma è cambiato un po' lo scenario in Veneto. La vera sorpresa però è questa, cioè la lista del presidente Zaia da sola ottiene 3 volte il risultato della Lega. Questo nemmeno i sondaggi preelettorali lo prevedevano, perché testavano la Lega al 25%, sì, mentre ottiene un 15%. È una vera sorpresa che potrebbe aprire anche nuovi scenari. Chiaramente, anche dentro la Lega. Chiaro. Certo. Grazie Paolo Usinabia dal Veneto, grazie per il tuo lavoro. Silvia Piraccini dalla Toscana. Silvia, buonasera. Sì, buonasera, buonasera, buonasera. In Toscana invece si aspettava un testa a testa tra il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani e la candidata del centro-destra Susanna Ceccardi, e invece fin dallo scrutinio dei primi seggi Giani si è sempre mantenuto in testa, e adesso, quando sono già stati scrutinati 2/3 dei seggi, è avanti di 8 punti sulla candidata del centrodestra. Quindi una vittoria diciamo abbastanza netta, e non c'è stata il previsto assalto del centrodestra alla Toscana, e oltre al fatto che c'è stato il crollo vero e proprio del Movimento 5 Stelle, che aveva una propria candidata, Irene Galletti, che ha preso poco più del 6%. Quindi una Toscana che si riconferma, come è stato fin dalla nascita delle regioni nel 1970, una regione a guida centrosinistra. Il presidente uscente Enrico Rossi, che è stato per 10 anni, lascia il testimone a Eugenio Giani. Adesso si tratterà però di parlare di programmi, perché in campagna elettorale in realtà di programmi si è parlato abbastanza poco, soprattutto di economia, rilancio economico, politiche economiche e appunto crisi da superare. Quindi adesso la vera sfida, in una fase naturalmente difficile come nelle altre regioni, sarà quella di trovare delle possibili soluzioni, aiuti, sostegni alle imprese, alle crisi economiche. Grazie Silvia Pieraccini dalla Toscana. Ciao Silvia. Dalla Puglia, Lucia De Mari. Lucia, allora abbiamo visto Emiliano 46,58%, insomma, qua ha stupito anche lui? Eh sì, si festeggia in corso Vittorio Emanuele a Bari, nonostante non ci sia ancora l'ufficialità della vittoria, ma questo 46 e qualcosa per cento delle preferenze già fa festeggiare Michele Emiliano per la sua riconferma e gli fa dire che non è il primo giorno dell'autunno oggi, ma è la primavera barese, la primavera pugliese che continua a splendere. Michele Emiliano ha festeggiato appunto in anticipo sull'ufficialità con questo vantaggio di circa 9 punti percentuali sull'avversario di centrodestra, il già governatore Raffaele Fitto, che aveva guidato la Regione Puglia dal 2000 al 2005, quando poi cedette a sorpresa contro Nichi Vendola. Allora abbiamo detto Emiliano 46,6% nelle proiezioni, Raffaele Fitto 37,6%, Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle è all'11,3% e Ivan Scalfarotto di Italia Viva, c'era stata questa polemica per questa scissione, appunto, Ivan Scalfarotto ha il 2,4%. Emiliano ha sottolineato che è stata una campagna elettorale molto difficile, molto bella, addirittura ha pensato anche di perdere per un certo periodo, e poi con i ripetuti appelli al voto utile, soprattutto al voto disgiunto che ha rivolto agli elettori del Movimento 5 Stelle in particolare, per evitare di mandare, diceva lui, la Lega al governo della regione con il centrodestra, evidentemente ha avuto ragione. Quindi resta comunque distante la candidata del Movimento 5 Stelle, Laricchia, che aveva rifiutato l'invito a ritirare la sua candidatura e unirsi al centro-sinistra, chiamando poi in Puglia Di Maio, Di Battista, così appunto come Ivan Scalfarotto. Michele Emiliano, 61 anni, già sindaco di Bari, secondo mandato, riconfermato alla guida della Regione Puglia con le sue 15 liste a sostegno, di cui la prima naturalmente è quella del Partito Democratico, che al momento attuale nel conteggio dei voti ha il 17,49%. Grazie Lucia De Mari dalla Puglia, grazie di tutto questo riassunto della situazione, chiarissimo. Ci lasciamo perché adesso c'è il GR, c'è il GR24, ci risentiamo subito dopo perché andiamo avanti fino alle 23. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi in questa speciale edizione puntata di Effetto Notte che va avanti sino alle 23, perché naturalmente bisogna commentare i risultati di questa importantissima scadenza elettorale tra elezioni regionali, anche se sono votati anche in tanti comuni italiani, ma insomma i voti più pesanti sono quelli delle regionali, i risultati, e poi il 70% quasi di vittoria del sì nel referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Ne abbiamo parlato con tanti ospiti, corrispondenti, inviati, eccetera, eccetera. Adesso ho il piacere di salutare Alessandra Ghisleri, politologa, regina dei sondaggisti, direttrice di Euromedia Research, nonché anche scrittrice del suo ultimo libro La Repubblica dei Sondaggi, l'Italia raccontata attraverso i numeri. Buonasera Ghisleri. Pronto? Caduta la linea, è successo qualcosa? Va bene, insomma, diciamo che c'è una situazione febbrile naturalmente per gli aggiornamenti degli ultimi, ormai si stanno scrutinando un po' tutte le sezioni, insomma, però i risultati ancora completamente definitivi per alcune regioni ancora non si hanno, anche se abbiamo già parlato ampiamente di chi ha vinto, di chi diciamo, ha fatto fatica a stare dietro ai vincitori, e poi anche per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, diciamo, da una parte la vittoria per quella che è stata la sua bandiera, il taglio dei parlamentari, e dall'altra però a livello di presenza sul territorio, quindi risultati delle elezioni regionali, piuttosto scarsa. Dicevo che ho il piacere di salutare Alessandra Ghisleri. Eccoci qui. Buonasera, c'era un problema tecnico. Già presentato, politologa, dicevo, regina dei sondaggisti, con il suo ultimo libro La Repubblica dei Sondaggi, l'Italia raccontata attraverso i numeri, perché la dottoressa Ghisleri è specialista, insomma, di questo racconto del nostro paese attraverso anche in particolare le elezioni, le opinioni, i sondaggi. Ghisleri, per esempio, è vero che soprattutto in Puglia, dove diciamo il Partito Democratico aveva paura di perdere, così come anche in Toscana, ha vinto il voto disgiunto, il voto utile, nel senso, per esempio, c'è Speranza, ministro PD della salute, che dice, fra l'altro, gli elettori sono più avanti dei gruppi dirigenti e ci indicano la strada giusta superando le divisioni che permangono ancora tra le leadership, perché sappiamo che il Partito Democratico, ma anche lo stesso Conte, presidente del Consiglio, aveva chiesto che si unissero PD e Movimento 5 Stelle, unissero le forze per le regionali, ma il Movimento 5 Stelle ha voluto andare, insomma, per conto proprio. Ma secondo Speranza gli elettori proprio del Movimento 5 Stelle invece poi hanno votato i candidati PD? Allora, intanto la Puglia era una casa molto particolare, perché oltre a Emiliano col PD avevamo la presenza di Scalfarotto, che rappresentava una parte del centro-sinistra con Italia Viva di Renzi, certo, e Azione di Calenda, e in più c'era questa situazione con i 5 Stelle, con una candidata che, rispetto a tutti gli altri candidati che si sono presentati nelle altre regioni, era molto forte. Il voto utile ha prevalso. Fin dalle ultime rilevazioni, anche quelle che non si potevano pubblicare e che non sono state pubblicate, il candidato Emiliano era molto forte rispetto a Fitto, che era sostenuto da un buon schieramento, ma il candidato Emiliano aveva 14 liste e non solo, aveva proprio dalla sua la forza di essere sul territorio, ha fatto una campagna molto legata al territorio, facendo comprendere da una parte il voto, diciamo, disgiunto, cioè dire se volete votare il 5 Stelle, ma poi dovete riuscire a capire qual è il voto utile, dall'altra anche trainando quello che avrebbe potuto essere invece il voto per sé. E infatti nei sondaggi, allora nei nostri sondaggi, quelli elaborati proprio per lavorare sulla campagna elettorale, il voto dei 5 Stelle viaggiava tra il 12 e il 14% ed era necessario che riuscisse a scendere fino al 9-11% per poter drare e quindi drenare del voto da loro verso Emiliano, per potergli far recuperare quei punti che avrebbe perso verso Scalfarotto o verso altre situazioni. Così è stato, e anzi la sua forza, il suo legame col territorio, che lo vedevano all'inizio della campagna elettorale molto forte, molto conosciuto, ma in difficoltà soprattutto nei temi dell'agricoltura, nei determinati temi dell'energia, e che adesso credo che si siano ristabiliti. Ghisleri, so che lei tra pochissimo deve andare, ma su quale leader si sente di commentare? Per esempio il trionfo di Zaia, che addirittura adesso potrebbe mettere in pericolo, anche se Salvini ha negato, la leadership di Salvini proprio nella Lega Nazionale. Io penso che all'interno di tutti gli schieramenti ci sia da fare un ragionamento sul rapporto con gli elettori. Da parte del centrodestra è importante analizzare quello che avrebbe potuto essere un confronto, perché le liste, pensiamo alla lista Toti, alla lista Zaia, hanno nettamente superato e prevalso sulle liste dei partiti. Quindi successi personali, soprattutto. Successi di gente sul territorio che ha voglia di impegnarsi in politica e che non vuole essere scartata dalla politica. Ricordiamoci che il Movimento 5 Stelle nasce proprio di qua. Cioè, il Movimento 5 Stelle nasce per l'esigenza del pubblico di non essere solo spettatori della politica, ma di diventare attori. E così, attraverso queste liste, attraverso un coinvolgimento delle persone, è successo. Dalla parte invece del centro-sinistra abbiamo una situazione molto delicata, perché abbiamo uno Zingaretti con una vittoria buona in Toscana, che comunque ha una terra molto importante, ma allo stesso tempo con un territorio che sta prevedendo su 20 regioni, 15 regioni al centro-destra e un governo completamente centro-sinistra. Allora anche su questo un dialogo maggiore con l'elettorato, perché non è una storia di partiti, è una storia di persone. Quindi c'è più dialogo da che punto di vista, Ghisleri? Dal punto di vista dei politici dovrebbero immergere sul proprio territorio. Sì, perché non basta fare una campagna elettorale, impastare il pane, far vedere che si sanno fare le orecchiette oppure la focaccia. È necessario andare sul territorio e parlare con la gente, perché quando noi ascoltiamo la gente, le persone ci raccontano che hanno bisogno della politica e desiderano dei punti di riferimento e sono disponibili a impegnarsi in prima persona per poter rappresentare se stessi, se nessuno ha dei programmi che come dire, li coinvolgono, aderiscono alle proprie idee. Bene, invece per quanto riguarda, per esempio, allora, lei diceva che sono più bravi evidentemente se ci sono 15 regioni al centrodestra e 5 al centrosinistra, significa che il centrodestra in questo... Parliamo di 15 perché la Valle d'Aosta, lo scrutinio inizia domani e certo. A vedere quello che dicono. No. Anche lì la Lega, no? Mi sembra che sia... Dicono che la Lega sì. È molto avvantaggiata. Che sia avvantaggiata. Se si dovesse trarre una lezione, lei già in parte lo diceva Ghisleri, no? da queste elezioni, è che la gente ha voglia di partecipazione, si è visto anche col referendum, no? Per esempio. Certo. Ha voglia di partecipare, ma ha voglia anche, sì, ha voglia di farsi sentire, proprio perché è un momento molto delicato. Dobbiamo ricordare che queste sono le prime elezioni, l'avrete ricordato più volte, dopo la pandemia, e quindi hanno segnato uno scarto differente, una campagna molto più pacata, marcata da qualche tono acceso ma molto limitato, e una campagna fatta sul territorio. E non è una campagna di partiti, lo ripeto, è una campagna fatta di persone. Non a caso i 5 Stelle hanno cavalcato moltissimo l'onda del referendum, che è un loro cavallo di battaglia, e molto meno l'onda di quello che avrebbe potuto essere la vittoria dei loro candidati sul territorio, che invece hanno, come dire, fatto delle performance molto meno significative rispetto a tutti gli altri. E anche là dove c'è stata un'unione di intenti, in Liguria, c'è stata una debacle forte. Ma perché? Perché i governatori uscenti, quindi parliamo di Toti, parliamo di Zaia, parliamo di Emiliano, parliamo di De Luca, certo, hanno rappresentato il territorio nella peggiore delle situazioni che le nuove generazioni avessero mai avuto di fronte, e che è stata la pandemia. E in questa particolare situazione si sono, come dire, sono diventati dei punti di forza, dei punti di riferimento. Quindi, come dire, è come se la campagna elettorale fosse iniziata a nostra insaputa anche in quel momento, cioè nel momento in cui i governatori si sono spesi, hanno cercato di difendere i propri cittadini e i cittadini li hanno riconosciuti come dei punti di riferimento. Messaggio chiarissimo. Grazie Alessandra Ghisleri, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. C'è la viabilità? No, non abbiamo la viabilità a questo punto, ma invece abbiamo vari altri collegamenti. Abbiamo parlato con i corrispondenti, gli inviati in diverse regioni. Ci mancano la Campania, la Liguria e le Marche. Dalla Campania c'è la nostra Laura Viggiano. Ciao Laura. Ciao, buonasera. Stavamo giusto, sì, appunto, Laura, parlando di De Luca, insomma, in finale con Alessandra Ghisleri. Sì, De Luca che vince con una percentuale decisamente significativa, anche se ovviamente lo scrutinio è ancora in corso, però tra i pronostici, insomma, gli exit poll e lo scrutinio che va avanti, insomma, questo è un dato che viene confermato, come è confermato ovviamente la vittoria del sì al referendum, che ha raggiunto una quota superiore al 77%. De Luca per il momento ha il 67,77%, no? Quindi si avvicina anche lui al 70% come per il referendum, Laura. Sì, sicuramente, insomma, è ovviamente un dato parziale, siamo a 957 sezioni, insomma, scrutinate, insomma, su 5.827, sì. Quindi è chiaro che si può forse, insomma, diagnosticare che il dato sarà superiore al 65%. Questo sembra quasi acclarato, insomma, il trend è decisamente consolidato, appunto, insomma, va sempre sopra il 65% e non sotto da quando è iniziato lo scrutinio. Quindi mentre invece il candidato del centrodestra Stefano Caldoro è intorno al 16% e Valeria Ciarambino, la rappresentante del Movimento 5 Stelle, intorno al 13%. De Luca ha già parlato in serata, arrivando, diciamo, al suo comitato elettorale che è nella stazione marittima di Napoli, e ha detto che si tratta di un risultato del popolo che va oltre gli schieramenti, insomma è un risultato che sostanzialmente è espressione dell'unità delle energie positive della campagna. Da domani, ha detto, continueremo a lavorare. Il punto cardine in una situazione di emergenza economico-sociale sarà sicuramente il lavoro, ma anche ovviamente la questione della sanità, l'emergenza Covid, quindi già prevede un incontro con i dirigenti delle ASL e punterà poi sull'agricoltura e sul nuovo piano di sviluppo rurale. Intanto sul Covid però ammonisce, insomma, dice che la situazione è gravemente sottovalutata, la situazione dell'Italia, e si aspetta ad horas una discussione per poter arrivare a nuove decisioni anche per il contenimento delle attività che ormai sono tutte quante riaperte. Certo, che sappiamo che è sempre stato molto molto severo su questo aspetto, sul cercare di contrastare il coronavirus, di evitare la movida, che si abbassasse troppo la guardia, no? In tutto questo periodo sappiamo, Vincenzo De Luca, anche a volte, diciamo, con delle espressioni piuttosto colorite, ma è sempre stato molto fermo. Grazie Laura Viggiano dalla Campania. Ciao Laura. Grazie. Ciao, buona serata. Altro presidente di regione uscente che è stato riconfermato, insomma dovrebbe essere più o meno definitivo il dato, ce lo racconta Andrea Ferro dalla Liguria, sto parlando di Toti naturalmente. Ciao Andrea. Ciao Roberta, ciao, sì, ti confermo, innanzitutto ti do anche l'aggiornamento sulle sezioni scrutinate che sono 1383 su 1795, quindi ci siamo quasi. Toti, appunto, sulla base di questo ultimo aggiornamento, 55,95. Ferruccio Sansa, che rappresentava il PD e il Movimento 5 Stelle, che in questa unica regione si sono presentati insieme, non raggiunge neppure il 40%, siamo intorno al 39,19%. Va detto che non partecipava a questo accordo Italia Viva, che ha deciso di correre da sola con Aristide Massardo, e c'è un deludente 2,37% appunto per il candidato di Italia Viva. Ma il dato politico estremamente significativo è che la lista Cambiamo per Toti è il primo partito in Liguria, oltretutto con un margine anche di vantaggio significativo sui partiti, diciamo così, che seguono in questa graduatoria, appunto la lista Toti al 22,7%, pensate, la Lega non arriva al 17%, mentre il PD supera appena il 20%. Anzi, l'ultima rilevazione dice 19,9%. Questo è un risultato estremamente significativo che rafforza l'affermazione di Toti. Sentivamo prima la Ghisleri che parlava di come in qualche modo l'esposizione nelle emergenze abbia favorito i governatori uscenti. Nel caso di Toti c'è da ricordare anche che in questi anni la Liguria ha dovuto affrontare altre emergenze. Questione di mobilità, trasporti, il ponte, no? Esatto. E infatti su questo punto anche Sansa, diciamo, ha polemizzato con sulla strumentalizzazione del ponte da parte di Toti, però al di là di tutto questo è un risultato che, diciamo, lascia pochi margini di dubbio sul fatto che il governatore uscente rispetto al suo sfidante ha potuto contare su una personalità, su un ruolo mediatico che Sansa non aveva. Sansa peraltro ha trovato, diciamo così, la candidatura dopo un lungo processo tra strappi e cuciture e ricuciture all'interno appunto di questa coalizione che andava formandosi, e chiaramente non è stato favorito dal fatto di essere arrivato in ritardo sulla scena e anche dal fatto forse di essere una figura decisamente meno mediatica rispetto a Giovanni Toti. Va detto, sempre provando a dare un'analisi politica più completa, che 5 Stelle e PD nel 2015, per quanto corressero separati, insieme avevano fatto il 52%, oggi non arrivano al 40%, poi c'è questo 2% di Italia Viva, però evidentemente questo disegna un quadro politico a livello regionale molto diverso rispetto al passato. Infatti Toti ha enfatizzato questo risultato storico, ha detto mai il centrodestra aveva ottenuto un risultato di questo genere, mai il centrosinistra aveva subito un tracollo di questo genere. Chiaro, grazie Andrea Ferro dalla Liguria, ciao, buon lavoro. Buona ciao Andrea. Invece adesso andiamo nelle Marche, regione conquistata dal centrodestra, ce lo racconta questo esito Laura Meda. Ciao Laura. Buonasera. buonasera a tutti. Dunque, un evento importante per la Regione Marche, non si era mai verificato nella sua storia un governo di centrodestra. Al momento abbiamo 1132 sezioni scrutinate su 1576, quindi ben oltre il 50%. Francesco Acquaroli fa segnare oltre il 49% delle preferenze, quindi oltre 10 punti in più del suo diretto avversario Maurizio Mangialardi del PD, che si è fermato sotto il 38%. Una vittoria che era già stata data per certa nel corso del pomeriggio, prima con gli exit poll, poi con le prime proiezioni. Una vittoria a cui non è voluta mancare neppure Giorgia Meloni, la leader nazionale di Fratelli d'Italia, che infatti è arrivata in serata ad Ancona ed è andata subito presso la sede elettorale di Acquaroli in zona Baraccola a festeggiare con lui. Ci sono stati applausi, c'è stato un abbraccio con il neo governatore della regione. Insieme hanno svolto la conferenza stampa. Acquaroli ha dichiarato che è stata una vittoria della disponibilità e delle capacità di dare nuove opportunità ai marchigiani e alla loro regione, e ha dichiarato che punterà subito su infrastrutture, sanità e ricostruzione. Sempre parlando di questi temi, ha parlato anche Maurizio Mangialardi, lo sconfitto del centro-sinistra. Del centro-sinistra. Secondo lui c'è stato un errore di approccio comunicativo riguardo a questi stessi temi, ed è stato questo uno dei motivi che ha portato poi a questa sconfitta da parte del PD. Mangialardi poi dalla sua sede in zona Passetto ad Ancona si è complimentato comunque con il vincitore e si è dichiarato pronto a fare un'opposizione comunque competente. Oltre a lui ha parlato anche il candidato pentastellato Mercorelli, che invece si è fermato poco sotto la doppia cifra. Entrambi sono stati interrogati sulla mancata alleanza PD 5 Stelle, che forse avrebbe potuto cambiare le carte in tavola, anche se vediamo che il divario di Acquaroli sta sempre più aumentando. Comunque, insomma, i punti sono quelli ed entrambi in questo caso hanno dato la colpa al rispettivo avversario della mancata alleanza. Invece sono irrilevanti le percentuali degli altri candidati. In tutto erano 8 i candidati alla poltrona di governatore della Regione Marche. Neppure Mancini di Dipende da noi, che si ipotizzava potesse superare il 3%, al momento è riuscito a superare tale soglia. Bene, grazie mille Laura Meda dalle Marche. Grazie Laura. Grazie, buona serata, buona continuazione. Grazie, buon lavoro a te per tutto questo quadro così esauriente. Direi di fermarci di nuovo per una piccola pausa di riflessione e di respiro, e poi il rush finale, l'ultima mezz'ora ancora ad analizzare l'esito di questo voto, in particolare delle regionali, che conseguenze avrà sul governo nazionale e anche per esempio queste vittorie del Partito Democratico da solo, visto che appunto Italia Viva e Movimento 5 Stelle, tranne che in Liguria, sono andati per conto loro, quanto conterà nel governo e nel Partito Democratico e anche nel rinforzare lo stesso Zingaretti, e cosa invece succede per esempio nel centrodestra e nella Lega. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tante le notizie, ma per lo più dedicate naturalmente in questa edizione speciale di Effetto Notte. Roberta Giordano naturalmente con voi, sono due ore, una in più del solito, quindi proseguiamo ancora dalle 22 alle 23, tutte concentrate insomma sull'esito di questa tornata elettorale tra referendum e elezioni regionali e naturalmente anche comunali. Abbiamo analizzato molto il voto con costituzionalisti, esperti di leggi elettorali, commentatori, inviati, corrispondenti. Torna Barbara Fiammieri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, rieccoci insieme. Barbara, allora, a questo punto che riverberi ci saranno a livello dei partiti, all'interno dei partiti, ma anche del governo? Lo stesso Zingaretti, per esempio, praticamente, insomma, giustamente si è sentito più forte, era a rischio in Toscana e Puglia, se si fosse persa soprattutto la Toscana, molti puntavano il dito verso Zingaretti dicendo se si dovesse perdere la regione tradizionalmente di sinistra, Zingaretti dovrebbe dimettersi. Invece naturalmente si è sentito giustamente rafforzato. Lo stesso governo, no, ne ha conquistato in stabilità, doveva essere la spallata a questo governo, invece tra referendum, battaglia, bandiera del Movimento 5 Stelle e le regioni Toscana e Puglia in particolare, diciamo che si è rinforzato. Sentiamo per esempio Zingaretti, che ho fatto sentire all'inizio, che poi ha voluto togliersi un sassolino sulla questione: se fossimo stati tutti uniti, intendendo tra PD, Movimento 5 Stelle, ma anche Italia Viva, saremmo stati anche più forti. Se ci avessero dato retta di più i nostri alleati, l'alleanza di governo probabilmente avrebbe vinto quasi tutte le regioni italiane. E cioè l'unità non è né un problema né un rischio, ma è un'opportunità. Come commenti, Barbara, questa osservazione? Allora, che lui è il grande... Zingaretti è il vincitore di queste elezioni, non c'è dubbio, così come Salvini è sicuramente lo sconfitto. Zingaretti ha vinto e secondo me, grazie al fatto adesso... cioè, può dirsi vincitore proprio perché non si è alleato con nessuno. Nel senso che ce l'ha fatta da solo, ce l'ha fatti da solo. Sì, ce l'ha fatta da solo, perché se noi andiamo a vedere anche stasera, no, guardando sulla televisione che mandano le schermate, e noi vediamo che il centrodestra comunque è, ci sono tre partiti e tutte e tre sono partiti solidi, cioè quello più debole è Forza Italia, ma stiamo sempre parlando di un partito che prende tra il 6, l'8, il 9%. E il PD, vedi il PD e poi vedi alcune forze politiche, ma insomma che raccolgono pochi voti, e la stessa Italia Viva insomma ha raccolto, per esempio anche in Toscana, proprio a casa di Renzi, ha raccolto pochi voti, quindi alla fine Zingaretti ce l'ha fatta da solo. E quindi da questo punto di vista lui oggi che dice se ci fossimo alleati, forse rivolgendosi ovviamente ai 5 Stelle, forse avremmo vinto dappertutto, in realtà non è vero per niente, perché se loro si alleavano in Veneto non avrebbero certo vinto contro Zaia, in Liguria si sono alleati e hanno perso. È l'unica regione, no, dove si sono alleati i PD, è l'unica regione Stelle, dove, no? Hanno perso è nelle Marche, sì, nelle Marche effettivamente forse ce l'avrebbero fatta, ma poi bisogna vedere come risponde l'elettorato, perché la cosa interessante secondo me di queste elezioni, e vengo alla tua domanda sul rispetto al governo, cioè governo come ne esce da queste elezioni? Secondo me ne esce bene. Perché ne esce bene? Perché di fatto gli elettori nelle urne hanno deciso che questa alleanza va bene, e l'hanno deciso come? Una parte, poi vedremo nei prossimi giorni gli istituti che sono, come dire, che fanno ricerca sui flussi di voto, ci diranno meglio già domani. Però insomma quello che emerge anche guardando un po' così i voti, no? Cioè quanto ha preso il candidato, quanto ha preso il voto di lista, c'è stato un po' di voto disgiunto, cioè gente che ha votato Movimento 5 Stelle ma poi ha votato, che ne so, Gianni in Toscana. O Emiliano, ma, no? O Emiliano, sì. Ma poi c'è stato tanto voto utile, cioè di gente che non ha votato più neanche il partito a quel punto, cioè è andato direttamente a votare il PD. Perché per esempio, prendo proprio il caso della Toscana, ma anche della Puglia, ma anche della Liguria, per dire, dove hanno perso. Cioè il PD ha preso più voti. Cioè proprio il partito ha preso voti, cioè loro in Toscana hanno preso, il Partito Democratico in Toscana non solo il primo partito, lo era anche prima, ma ha preso più voti che alle europee, dove però aveva ancora i Renzi dentro e non c'era stata la scissione. In Puglia è tornato ad essere il primo partito perché era stato superato dai 5 Stelle e dalla Lega pure, invece sono entrambi arretrati, sia la Lega che i 5 Stelle. L'altro punto, l'altro che ti dicevo, il grande sconfitto è Salvini, ma è sconfitto non solo perché non ha conquistato la Toscana, questo certamente era anche una sfida, la sfida più ardua quella di conquistare la Toscana. Ma perché in Veneto Zaia, come abbiamo detto, ha avuto ma un successo personale questo, straordinario, ma neanche, sì, neanche solo no, questo. Non ancora solo un'altra questo, cosa. Sì. È perché ha arretrato proprio il partito. Cioè la Lega è andata male ovunque. Scusa però, cioè, Barbara, scusa, vedo una dichiarazione di Salvini che dice la leadership le decidono i cittadini e la Lega è il primo partito in questo paese, il primo partito del centrodestra sostanzialmente in tutte le regioni in cui si è votato. Beh, non è vero. Non è vero. Non è vero, non è vero, perché per esempio in Puglia è Fratelli d'Italia, in Campania è Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda quindi, il centrodestra. Sì, e ti dico di più, E ti dico di più, in Liguria non è il primo partito la Lega, ma è il terzo, perché è stato superato, ora bisogna vedere i dati definitivi delle liste, però sicuramente il primo partito è la lista di Toti e il governatore. E ricordiamoci che Toti praticamente è un orfano, perché non ha più un partito, ha fondato un suo partito, che però Cambiamo. È un piccolo partito appena nato, Cambiamo, e quindi di fatto il governatore uscente, vuoi perché come ha gestito il Covid, vuoi per come ha gestito la storia del Ponte di Genova, fatto sa che il governatore uscente ha preso oltre il 20% e la Lega al 16%. Allora queste cose vogliono dire, e la stessa cosa è successa in Toscana, cioè la Lega in Toscana è arretrata di oltre 10 punti rispetto a un anno fa alle europee, quando sfiorava il Partito Democratico la Lega l'anno scorso alle europee, cioè ci fu un testa a testa, poteva diventare primo partito la Lega in Toscana. Quest'anno sta a 10-11 punti sotto. Chiaro, chiarissimo. Quindi, Barbara, ci ha raggiunto anche un'altra grande firma di Sole 24 Ore, Lina Palmerini. Ciao Lina. Ciao, ciao Roberta, ciao Barbara. Ciao Lina. Senti Lina, allora Speranza dice praticamente, ministro della salute nonché esponente del PD, un po' la cosa che diceva Barbara, cioè dice... aspetta che lo riprendo, prima stavo guardando Salvini, dice abbiamo concorso in tutte le regioni al voto a costruire la coalizione di centrosinistra, a favorire l'unità tra le forze che sostengono il governo. Gli elettori, dice Speranza, sono più avanti dei gruppi dirigenti e ci indicano la strada giusta, superando le divisioni che permangono ancora tra le leadership. Secondo te, Lina, gli elettori in qualche modo hanno detto, come direbbe Speranza, che PD e Movimento 5 Stelle devono... rinforzare la loro alleanza, che già c'è al governo, ma insomma non è così forte visto che sono andati un po' per conto loro? No, diciamo che non è stato dappertutto così. Sicuramente è stato nelle due regioni che erano più contendibili, la Toscana e la Puglia, e nelle Marche è andata male, e poi anche nelle altre regioni il centrodestra mantiene la sua comunque la sua primazia. Per cui è sicuramente un'indicazione che va verso una stabilizzazione di questa maggioranza e del governo, però è un'alleanza su cui adesso sia il PD che i 5 Stelle devono lavorarci perché sono andati comunque alle regioni divisi, hanno davanti un grande progetto di rilancio economico per le prossime generazioni, però loro non hanno ancora deciso come strutturarsi e come andare avanti. Credo che un grande ruolo ce l'avrà non soltanto Zingaretti ma anche Conte, perché insomma i 5 Stelle hanno gli stati generali, dovranno decidere leadership, agenda programmatica eccetera, quindi insomma ci sono ancora molti passi da fare. Mm-hmm. Sicuramente Speranza spinge per stabilizzare il governo e per strutturare l'alleanza, ma lui dall'inizio diciamo era a favore di un patto con i 5 Stelle. Mi pare che più controversa la situazione è nel PD, perché nonostante la vittoria di Zingaretti, comunque ci sono ancora voci nel PD che dicono possiamo farcela anche da soli. Mm-hmm. In fondo, insomma, sia in Toscana che in Puglia ce l'abbiamo fatta anche da però, soli. Però Lina, nel governo peserà di più a questo punto il PD nelle decisioni, nelle scelte? Già per esempio Zingaretti parlava del MES, che sappiamo è indigesto, no? Il meccanismo europeo di stabilità indigesto al Movimento 5 Stelle, quindi ci sarà un dominio da parte del Partito Democratico, ma insomma i rapporti di forza un po' cambieranno? Sicuramente Zingaretti si rafforza e Zingaretti deve prendere un'iniziativa, perché finora il PD non ha una sua bandiera, non ha una sua identità. I 5 Stelle hanno avuto quella del taglio dei parlamentari, poi quella del reddito di cittadinanza, il PD non ne ha neanche una, quindi innanzitutto la deve cercare, la deve imporre non solo sul tavolo del governo ma agli italiani, agli elettori, e credo che il MES sia qualcosa di un po' troppo tecnico per tradurlo in termini di popolarità e di consenso. Un partito ha bisogno diciamo di una spinta ideale che va un po' oltre il MES. Se loro si riducono a parlare soltanto del MES, per quanto la presa non è così forte insomma sugli elettori, sui cittadini. Legge elettorale, esatto. Il PD è un partito che ha bisogno di più empatia, di riempirsi di contenuti anche ideali oltre che di empatia, anche perché è un partito che è cambiato molto velocemente nell'arco di pochi anni, cioè è passato da una linea all'altra, da Veltroni a Bersani, da Bersani a Renzi, da Renzi a Zingaretti, quindi deve trovare anche una stabilità, soprattutto adesso che ha sotto gli occhi l'occasione di una ripresa con i fondi europei, tra l'altro sul programma dell'Europa che è molto di centrosinistra, perché comunque l'agenda del Recovery Fund e del Next Generation EU è un'agenda di centrosinistra, si parla di coesione sociale, di ambiente, quindi tutti i temi che anzi lì per primo dovrebbe saper interpretare, declinare e proporre poi agli italiani. Sentiamo Lina e Barbara Di Maio a proposito del fatto che si dicesse insomma da parte dell'opposizione, anche se Salvini in realtà poi negli ultimi tempi era stato molto moderato, aveva detto comunque vada, comunque sia il risultato non avrà nessuna conseguenza sul governo. Sentiamo Di Maio invece dice questo boomerang è stato il pensare che fosse un voto sul governo. Trasformare questo referendum anche in un referendum contro il governo e quindi ha ricevuto contro un boomerang. Visto il risultato. Che ne è adesso invece Lina del Movimento 5 Stelle dopo questi risultati? Quindi grande vittoria per quanto riguarda il referendum, che era appunto molto identitaria come battaglia per il Movimento 5 Stelle, mentre le regionali si è visto insomma molto deludente invece il risultato. Sì, sì, no, la tua lettura è giusta, è solo che anche la vittoria al referendum, tu come sai quando si raggiunge un traguardo poi si rimane un po' l'agenda vuota, quindi bisogna metterne un altro perché insomma hai raggiunto una vittoria, però ti devi dare anche un obiettivo per il domani, perché comunque devi continuare a parlare con il tuo elettorato e non è un dialogo facile, perché tra l'altro il sì non ha preso soltanto il voto grillino, è stato un voto trasversale, c'è anche di persone che non votano 5 Stelle, quindi a loro non solo devono riconvincere quelli che hanno perso, li devono convincere su degli obiettivi, quindi gli stati generali saranno una grande contesa sulla nuova leadership, ma saranno anche un po' una messa a punto dell'agenda programmatica, cioè tutto quello che si rimprovera anche a Di Battista è proprio di stare troppo indietro con la testa, cioè di guardare ancora il movimento che era in piazza, che era rivendicativo e non essersi accorto che il movimento adesso è al governo, quindi deve cambiare ruolo necessariamente. Invece per quanto riguarda Salvini, Barbara Fiammeri, sentiamo Salvini sulla Toscana. In Toscana è stata una battaglia bellissima, io ringrazio i toscani, ringrazio Susanna, ovviamente l'ambizione, quando cominci una partita la giochi sempre per vincere, sapevamo che era una partita molto difficile, superare il 40% è una bella soddisfazione, gli elettori hanno sempre ragione, devo dire che anche lì essere il primo partito del centrodestra e aver superato il 40% è un bel punto da cui ripartire, stando ai dati, i consiglieri regionali della Lega uscente, se non ricordo male, erano 6 o 7, dovrebbero entrarne 9 o 10, quindi anche lì mattoncino su mattoncino. Dice Salvini, Barbara, mattoncino su mattoncino, non è andata così male. Di paragone, Salvini si riferisce alle scorse regionali, cioè a un altro mondo, quando la Lega non era paragonabile alla Lega di oggi, alla Lega del oltre il 34% di un anno fa, con Salvini leader più amato dagli italiani. Il punto è, cioè inutile fare i raffronti, perché se la raffrontiamo allora alla Lega ancora prima, sicuramente oggi la Lega sta molto meglio. La Lega va raffrontata con le ultime elezioni e le ultime elezioni in Toscana, se vogliamo parlare della Toscana, la Lega, il centrodestra era di gran lunga sopra il 40% e ripeto, la Lega era a un passo da sorpassare il Partito Democratico in Toscana, adesso ha mi sembra 11 punti di distanza. Questo è un dato, questi sono numeri, allora bisogna fare un'analisi, hanno sbagliato il candidato, cioè dov'è l'errore, però sai anche questo, anche il candidato va bene una volta o comunque va bene in una regione, se tu cominci a perdere più sfide Forse non è tanto il problema dei candidati quanto della proposta politica che anche a livello generale tu fai. È vero che è difficile. La Toscana è una regione difficile, no? Comunque, no, ma non solo questo, Roberta. No. È difficile fare di un voto amministrativo un voto nazionale. Io sono d'accordo perché sicuramente, per esempio, ho inciso tantissimo in questa tornata elettorale la forza dei governatori uscenti, che però non erano in Toscana, per esempio, perché Gianni non era il governatore uscente, non poteva sfruttare l'effetto Covid come hanno fatto, per esempio, sicuramente Zaia, sicuramente Emiliano, come spiegava Alessandra Ghisleri, infatti. Ecco, però invece qui no, era vergine, come dire, il terreno, no? Quindi, tra l'altro, Salvini ha anche adottato una tattica diversa rispetto all'Emilia, lì molto gridata, molto di pancia, qui ha evitato i citofoni, ha evitato, insomma, comizi un po' dai toni un po' troppo arroganti, ha parlato in modo moderato, non è servito. Evidentemente c'è qualcosa che, come dire, si è rotto qualcosa con gli italiani, allora prima se ne prende atto e prima se ne esce fuori. Probabilmente Salvini oggi, il messaggio di Salvini oggi è meno credibile di un anno fa. Questo è un dato di fatto sia a livello nazionale che a livello locale. E questo può portare forse anche a un cambiamento degli equilibri, probabilmente nel centrodestra e anche nella Lega, perché che Zaia dice non sono interessato a partite nazionali, io faccio il governatore del Veneto e continuo a ripeterlo in ogni occasione, poi però... Sotto dici, vabbè. Sì. No, non sotto sotto, no. Roberta, le cose vengono, cioè, prima quando c'era Maroni nessuno avrebbe pensato, quando c'era Bossi nessuno pensava che Salvini l'avrebbe scalzato. Di 2-3 anni un ragazzo che prima dirigeva Radio Padania sarebbe diventato il leader della Lega, no? Dice, le cose succedono a un certo punto, passo passo. Adesso Alina vorrei far sentire Salvini invece sul Veneto. Il Veneto, se i dati verranno confermati a... la maggioranza assoluta del Consiglio regionale fra lista Lega e lista Zaia, intorno al 60%, con, ripeto, tutti i candidati sia della lista Lega che della lista Zaia che sono militanti e amministratori della Lega con qualunque bandiera siano eletti. Oh, Lina, quindi sei d'accordo con l'analisi di Barbara e di chi oggi dice che il grande sconfitto è Salvini, anche proprio all'interno del suo partito stesso? Sì, sono d'accordo, è vero che forse lui c'è stato un eccesso di autostima, cioè si è andato a scegliere delle sfide difficili perché sia in Emilia che in Toscana indubbiamente sono state scelte, insomma, sfide complicate, audaci, paragonabili con le Marche, però insomma le grandi leadership si testano anche su delle sfide impossibili, se vuoi. Sono d'accordo con Barbara quando dice che il problema di Salvini non è soltanto un problema di scelta di candidati, ma è un problema di proposta. Io penso che Salvini in questo momento non stia riuscendo proprio a intercettare il cambio di fase politica, quindi non ci sono più gli immigrati, gli sbarchi, l'agenda è completamente cambiata e soprattutto credo anche che un'altra cosa che lo svantaggia è il fatto di non saper proporre un'alternativa, cioè oscilla tra il andiamo al voto e non andiamo al voto, perché poi oggi ha detto no, non ci sono le elezioni anticipate, non offre un'alternativa al governo Conte, non lo sappiamo, non c'è, quindi questo indebolisce la sua leadership. Se vuole trasformare un'elezione regionale in un test nazionale deve saper offrire delle risposte anche a livello nazionale, quindi io credo che anche gli elettori che sono andati a votare abbiano un po' premiato la stabilità, in qualche modo abbiano rinunciato, diciamo, all'avventura soprattutto di questi tempi. Momenti così di crisi, insomma, di incertezze. Sì. Barbara, per chiudere, proprio in un minuto, il centrodestra, abbiamo parlato molto del centrosinistra, il PD, Movimento 5 Stelle, l'Alleanza, eccetera, nel centrodestra, quali sono gli equilibri in questo momento, proprio in un minuto? Beh, gli equilibri stanno cambiando, perché appunto questo arretramento della Lega e l'avanzata comunque di Fratelli d'Italia, perché è vero che ha perso in Puglia Fitto, però è vero che invece la Meloni rispetto a un anno fa continua continua ad avanzare un po' ovunque, quindi chiaramente questa competizione con la Meloni si fa sempre più serrata, però ripeto, per me invece il tema vero è quello che accadrà dentro la Lega, perché comunque la Lega, non ci dimentichiamo, è un partito di governo che governa le più importanti o tra le più importanti regioni italiane, prima su tutta Lombardia e Veneto, quindi pensare che la Lega, un partito del genere, primo partito in Italia, rimanga alla finestra mentre si decidono anche le sorti su come investire tutti questi soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, ma io credo che qualcosa accadrà lì dentro, cioè questa linea dello scontro continuo e del fatto che poi arriveremo noi al governo, finora non ha pagato o comunque non è riuscita. Che cosa fanno? Stanno fermi 2 anni nell'attesa dell'evento, dell'inciampo di Conte, la speranza che i 5 Stelle e il PD litigano. Qualcosa deve succedere anche nella Lega, perché ripeto, la Lega non è un partito di gente che così è venuta su per caso, cioè un partito strutturato, un partito soprattutto che governa, cioè governa in posti importanti dove c'è la gran parte del PIL italiano. Cioè, no, io non posso pensare Lombardia, che la Lega Veneto, Friuli, Venezia Giulia, eccetera. Bene, grazie mille di tutte queste analisi così illuminanti a Barbara Fiammeri, Lina Palmerini, grazie a tutte e due, buona continuazione, buon lavoro. Buonasera. So che scriverete molto poi dal giornale domani e dei prossimi giorni. Qui ci dobbiamo lasciare, ringrazio Alessandro Schirano, la parte tecnica Filippo Oreggi, da Roberta Giordano. Grazie, un saluto e un ringraziamento a tutte le ascoltatrici e ascoltatori che sono resistiti tra l'altro sin qui. Domani un altro giorno, ma l'appuntamento lo sapete sempre alle 21. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.